un paio di poltrone grandi e pesanti. Per spostarle occorre sollevarle ed essere in due. Sono lì, sono di chissà da quando, più o meno di fronte all'apparecchio televisivo. Chi ci si siede, nel cercarsi l'angolo visuale prediletto, effettua lievi spostamenti. Così arriccia il tappeto che è sotto. Io arrivo, percepisco la nota stonata e cerco di risistemare le cose. La superficie del tappeto deve essere come un mare senza onde. C'è anche mezza porta a vetri in casa mia che non si apre mai. Dall'altra parte c'è un tappeto troppo grande e se si apre la porta ci si va contro e se si insiste lo si solleva. Nel proprio dominio quotidiano si ammettono molte asperità, tavolini, lavabi, armadi, scrittoi, ripiani, maniglie, scaffali, serrature, cassetti, tutti ad altezze diverse. Ma dove camminiamo di solito esigiamo continuità nell'uguaglianza. Già un limbo di tappeto sollevato, oltre a far sospettare che serva di ricovero a sporcizia clandestina, costituisce un'irregolarità grave, un pericolo d'inciampo, uno spreco di attenzione. Fra le tante fotografie della mostra a Sguardi su Nietzsche, che in questi giorni, dopo essere stata a Roma, è a Milano, ne ho particolarmente osservato con interesse un paio dedicate a Lou Andreas von Salomé. La prima di queste fotografie la conoscevo, era uscita un po' su tutti i giornali all'epoca in cui la Cavani diresse Al di là del bene e del male, che se non vado errato era del 77, un film in cui lui era interpretato da Dominique Sandat. È quella fotografia in cui si vede lei sul carretto, no? Frusta in mano, intenta sollecitare le sue due bestie da traino. Uno era un certo Paul Ré e l'altro Friedrich Wilhelm Nietzsche. All'epoca siamo nel 1882, entrambi suoi amanti. Aveva 21 anni la fanciulla e doveva essere un bel tipo. Era nata a Pietroburgo, era figlia di un generale, i quattrini non le mancavano, pronta a sublimare la perdita della fede in un bel romanzo, bella anche lei ed energica, aveva tutto, insomma, per essere considerata dallo storico Ernst Nolte, in Nietzsche e il Nietzscheanesimo 1990, una delle donne più interessanti dell'era moderna, testuale. Ci si provi invece la figlia di un soldato semplice, nata magari a Bagnacavallo, povera in canna, cattolica praticante o agnostica quanto vuole, bruttina e malandata, a godere della medesima considerazione presso gli storici, di sinistra o di destra che siano. Ci si provi soprattutto a portarsi a letto dal 1881 in avanti Re e Nietzsche in accoppiata, a sposarsi l'orientalista Friedrich Karl Andreas, ad essere l'amante di Rainer Maria Rilke, che prima di conoscerla, ahimè, più leziosamente si chiamava René, a portarselo a spasso insieme al marito per non perdere le passate abitudini, a diventare allieva di Freud nel 1911 e, già che c'era, amante dello psicanalista suscettibile Victor Tausk, uno che aveva 18 anni meno di lei, ma era così suscettibile che, visto che Freud ha convinto un suo cliente ad interrompere l'analisi, nel 1919 si ammazza. Muore nel 1937 la cara vecchia Lou, non prima di aver lasciato ai posteri romanzi e saggi, uno dedicato ai personaggi femminili di Ibsen, uno ad rapporto fra anale e sessuale, poi un ringraziamento a Freud e molti altri. Il suo epistolario con il maestro è stato pubblicato nell'83 da Boringhieri, e lo trovate sotto il titolo leggermente malandrino di Eros e conoscenza. Tutto ciò tutto ciò con la frusta agitata nel 1882 alle spalle dei suoi due partners mi sembra perfettamente coerente. Nell'altra fotografia invece c'è qualcosa che quadra e qualcosa che non quadra. Lei è in piedi, è fasciata stretta di nero, ha i capelli corti e tirati indietro, è sola. Appoggia la mano destra alla spalliera di una sedia e il gomito sinistro su uno scrittoio. Siamo in piena iconologia del dominio. Come ogni buon padrone di casa, nel momento in cui rappresenta per gli altri il proprio rapporto con lo spazio abitativo, non sa rinunciare ad un contatto che con la dimestichezza ne designi il potere sulle cose di cui si circonda. Lou non si accontenta di un caminetto o del vano di una finestra come già con Re e Nietzsche e poi con suo marito Rilke, ne vuole due, da una parte la sedia, dall'altra lo scrittoio. I conti tornano qui fin troppo. Tuttavia, uno sguardo alla geometria della stanza rivela uno scarto. C'è qualcosa nell'organizzazione volumetrica della rappresentazione che disturba. Infatti, lo scrittoio non è parallelo alla parete. Tocca presumibilmente da una parte, ma non dall'altra. È stato spostato in avanti per favorire l'appoggio del gomito sinistro di lui. Ma nel rimuovere lo scrittoio, e qui sta il punto, nel rimuovere lo scrittoio si è rialzato il tappeto su cui stanno lui e la sedia. Un ampio lembo di tappeto è sollevato come una piccola onda sulla base dello scrittoio. Qualcuno, insomma, forse lui medesima, ha fatto i suoi conti. Evidentemente non c'era la possibilità di spostare il tappeto dall'altra parte, e fra il sacrificio di un secondo punto di appoggio e il sacrificio della rappresentazione euclidea del proprio spazio, ha scelto il secondo. La teoria della relatività, le geometrie iperboliche, la psicanalisi stavano per arrivare. L'ordine del vecchio mondo è messo in crisi.